Se consentite, vorrei dare inizio ai lavori con un saluto protocolare, ma insieme cordiale e sentito, vero, a tutti gli intervenuti. Non so perché, ho la sensazione che c'è un fluido particolare nell'aria, un pubblico insomma, che ha una sua tensione tutta esistenziale, e questo mi compensa di qualche assenza da parte dei grandi superiori, e mi rende felice nel dare questo saluto in questa sera a tutti i partecipanti, i relatori, nomi così illustri che non vorrei sciuparli elencandoli e nominandoli singolarmente. La vostra presenza dice già quanto sono stati apprezzati. E poi un ringraziamento particolare, vero, ai coordinatori, al professor Giorgio Penso e al professor Nicoletti, in particolare, come pure ai cooperatori della segreteria e della segreteria scientifica e organizzativa, che hanno consentito di arrivare felicemente a questo momento di apertura. Spero che tutti si trovino bene, non soltanto logisticamente in questa nostra città di Trento, ma anche spiritualmente in questo convegno che io con voi sento molto promettente. E se mi consentite di aggiungere una parola personale, così un'impressione personale, vi dirò che, ecco, guardando nei miei libri vecchi, ho trovato ancora quest'unico libro che avevo una volta di Kierkegaard, La malattia mortale, edito nel 1947. E leggendo la prefazione che aveva posto a questo il professor Paolo Brezzi, ecco, ho avuto la netta sensazione di quello che deve essere successo in questi anni seguiti al 1947. Cioè, la trovo, pur con tutto il rispetto e anche godendo l'intelligenza, la finezza di Brezzi, che ho poi conosciuto anche personalmente, ma la trovo enormemente libresca, troppo storico-letteraria, ecco, rispetto a quello che pur da profani oggi siamo portati a sentire solo al risuono del nome di Kierkegaard. Cosa è successo in questi 50 anni? Cosa è avvenuto che ha così acceso una nostra, il nostro interesse, ha cambiato così la nostra prospettiva da sentircelo immediatamente proposto come una realtà viva e che esige una nostra riflessione molto, molto interessata. Cosa è successo? Io lo devo dire da profano, se penso a quel che è successo con Bonhoeffer, nella sua attività e nella sua eredità filosofico-teologica. Se penso a quello che Karl Rahner ha riproposto, non solo a proposito della svolta antropologica, ma di quella, di quel concetto numero uno su cui tanto insisteva quando diceva che il cristianesimo oggi o è mistica o è niente. O è esperienza religiosa o si diluisce e ci sfugge di mano. Ecco, comincio a riflettere su tutto questo discorso. Certo, Bonhoeffer, ho visto a caso quasi questi giorni, è morto nello stesso anno di Antonio Rosmini, anche se era 16 anni più giovane. È stato trattato fino alla fine, ma per l'ambiente italiano, senza dubbio, il padre Cornelio Fabbro ha il massimo merito per averne promosso la conoscenza. Credo che occorrerebbe che fosse qui, se non era già tanto anziano e ormai scomparso, no? Ma tutti sappiamo che il padre Fabbro è stato fino all'ultimo respiro anche il nemico numero uno della canonizzazione di Antonio Rosmini. Che cosa c'è dietro nelle spire e nei risvolti di queste anime? Vero? Che cosa potrebbe comportare un maggiore raffronto? tra Rosmini e Kierkegaard. Ecco, noi qui in casa saremmo abbastanza interessati anche ad aiutarci un po' in questo, no? Ma se no, se guardo in avanti, certo che un tipo di sensibilità, una riflessione anche su parole che sembrano scontate, sempre quelle, come appunto le parole religione e fede, ecco, ci sollecitano sempre di più a riprendere in mano le riflessioni di Kierkegaard. Ho visto questi giorni di Martin Buber, due tipi di fede, e di Vatino, credere di credere. C'è fede e fede, no? C'è una fede molto nozionata, c'è un cristianesimo molto cosificato, e c'è un cristianesimo vivo. Penso da spettatore marginale che questo possa essere l'interesse peculiare che in noi si desta proprio in questi tempi, in alto e in basso, e che in modo peculiare per il nostro istituto in qualche maniera segna la strada. Ci immerge, chierici o laici che siamo, in una riflessione che cerca di abbordare, di cogliere meglio queste cose. Ovviamente per noi, almeno continuo su una riflessione molto personale, no, l'aspetto teologico, l'aspetto liturgico, l'aspetto veramente dell'annuncio della fede nei nostri giorni ha un interesse prevalente, però ci rendiamo, e quindi senz'altro il tema della relazione di questa sera di Bruno Forte sul fare teologia dopo Kierkegaard, ecco, entra pieno in questo tessuto vivente, ecco, ma il tutto non si lascia per niente tagliare fuori dalla riflessione sensibile di tutti quelli che anche sul piano puramente filosofico cercano di abordare e di trattare, di approfondire questa tematica, per cui benvenuto assai anche questo convegno, che è stato promosso da un orizzonte dichiaratamente filosofico per sé, vero? Nella serie di quegli incontri di filosofia che appunto noi portiamo avanti e di cui il nostro professor Penzo è stato ed è tuttora un po' il padre spirituale. Ecco, detto questo, io non ho che da rinnovare il ringraziamento e l'augurio a tutti che sia fecondo, ricco, stimolante questo nostro incontro, perché cedo subito la parola al dottor Stefano Minelli, direttore della Morcelliana, che presiederà questa tornata, questo nostro incontro vespertino. Ecco, e ricordo a proposito della Morcelliana non solo la cordialità, diciamo pure la disponibilità con cui costantemente collabora col nostro istituto, ma l'opera che con abnegazione da molti anni proprio la Morcelliana fa per portare avanti un'apertura verso orizzonti come quelli che ho accennato. Ricordiamo in particolare anche degli anni 40 l'edizione del diario di Bonhoeffer pubblicato dalla Morcelliana, ecco, forse anche quello pionieristicamente, e che riletto a distanza di 50 anni forse ci dice molto di più di quello che diceva ai lettori da allora, almeno ragionando con lettori della mia piccola statura, vero, che non erano in grado di intuire, di cogliere profeticamente quello che da questo messaggio sarebbe ancora uscito. Ecco, auguro in particolare buon inizio in questa sera e la migliore riuscita di questo convegno. Il mio primo atto prendendo la parola è di salutare Monsignor Roger, che tanto gentilmente mi ha accolto, e che, come ha anticipato lui stesso, fa godere questa atmosfera di famiglia a tutti i nostri incontri che periodicamente frequentiamo qui a Trento. Sia Monsignor Roger che i suoi collaboratori hanno saputo creare una intesa fra accademici, studenti, editori, che credo sia abbastanza rara ed è comunque da segnalare come un fattore molto positivo. Le parole che io adesso leggerò servono un po' a collocare storicamente il perché io, come rappresentante della Morcelliana, ho avuto l'onore di avere la parola oggi. Rievocherò attraverso due cartelline che spero saranno gradite l'atmosfera in cui è nata 50 anni fa l'edizione del diario di Kierkegaard. Al solo sentire pronunciare la parola, il nome Kierkegaard, si apre nella mia mente una voragine, una massa di ricordi, si accumula e inconsapevolmente faccio un viaggio a ritroso nel tempo. Mi ritrovo studente di liceo classico che frequenta l'allora ancora celebre collegio Cesare Arici dei Padri Gesuiti, dove, sia ben chiaro, mai avrei udito questo nome. Ma la sorte voleva che quasi con prepotenza Søren Kierkegaard entrasse nella mia vita quando un giorno nel 1946 mio padre venne a casa con un grosso volume, il primo tomo del diario del filosofo danese, tradotto, introdotto e curato dal padre professor Cornelio Fabro. Mi si disse dell'ordine dei padri stimatini, friulano ma residente a Roma, presso una parrocchia e un oratorio giovanile affidati appunto ai padri stimmatini. Si trattava di un volume grosso, cartonato, stampato su carta che ora noi giudichiamo, e con ragione, orribile. Ma in quegli anni chi la otteneva in una certa quantità, in assegnazione dai fatidici fondi americani dell'ERP, si riteneva fortunato. E qui devo pure aggiungere che ben rare volte ho letto sul volto di mio padre un senso di intensa gioia, di alta soddisfazione, come quando sfogliò davanti a noi figli le pagine di quel massiccio volume. E da quel momento è nato per noi e per me il binomio indissolubile Kierkegaard padre Fabro. E padre Fabro è diventato per lunghi anni meta di tante mie visite romane, dopo che il diario si rivelò anche un grande successo editoriale. Molti, anche degli amici presenti, ricorderanno l'edizione più elegante del 1962, in due volumi in carta india, rilegature in pelle verde. Seguì nel 1985 una nuova edizione, arricchita di ben circa 1000 pensieri, che ci costrinse a una totale ricomposizione del testo dopo una battaglia da me persa per pubblicare un bel terzo volume in pelle interamente nuovo. Ma padre Fabro insistette in maniera a cui era impossibile resistere per l'ordine cronologico. Aveva ragione. E l'illustre curatore ci costrinse a ricomporre il diario e a farne una diversa partizione. L'attuale diario ancora in vendita è in 12 tomi, dei quali il primo è l'ampia, esauriente introduzione di ben 176 pagine. Desidero ora, anche nella considerazione della recente scomparsa di padre Fabro, ricordare il grande esempio che mi diede di totale dedizione allo studio, al gusto di studiare e affrontare il pensiero dei grandi filosofi, l'amore per i libri, da bibliofilo appassionato che conservava come tesori collezioni e serie di prime edizioni. Il vasto e vario programma del convegno, il valore dei relatori ci offriranno in queste giornate trentine un più ricco panorama di temi e riflessioni. Ma mi permetto, prima che prendano la parola i relatori di stasera, di leggere due brevi frasi di padre Fabro che ritengo possono bene figurare come incipit del nostro convegno. Cito dall'introduzione di Padre Fabbro: è qualcosa di eccezionale e di indefinibile che trascina quel suo colloquiare con sé e con Dio, quel mantenersi sempre ad alta tensione, quel trasfondere immediato nel giro stesso della frase l'impeto delle sue implorazioni e delle sue proteste. Cito ancora: e nuove vie per salire a Dio, per entrare nel mondo, per discendere nell'inferno, cerca in Lui l'anima moderna, dilaniata dal dubbio. Occorre pensare che questo era scritto nel 1946, dilaniata dal dubbio e dall'ossessione di dominare il proprio destino. Tutti si richiamano più o meno direttamente alle sue idee per svolgere o per combattere l'indirizzo che gli ha dato la coscienza contemporanea nella tregua di pace fra le due guerre mondiali della prima metà